sento bene. Ti sento bene. Ecco, se ci vogliamo portare di un paio di canali, andiamo a vedere sul 12, vediamo se il simpatico ti segue. Lo stesso. Ma intanto ci seguirà, non è. Adesso ho abbassato il microfono, può perdere imprudentemente in vari colpi importanti, c'era il QRA che si sentiva chiaramente, che io ho individuato alla perfezione. Vabbè, l'ho fatto. Ad ascoltare. Roberto, Gianni, Luca. Vogliamo andare su 12, signori? No, fermati qua. Guarda, qui a... Thank you. Dai, vai 26, 25. 26, 26, 25. Vai, Roma. Già è al monte. E vedi? È tutto. Ah, come si sta? E mi ho bello. Auguro per te. Ubriaco. stupido. Giulio, prova a parlare. Mi sento, va bene. abbiamo una M. Sì, sì, ci sono anch'io. Come? Aspetta. Adesso sono tornato. Ascolto tu, figlio, se non fosse... Ok, io lo so perché... Perché io... Questo è lo stesso elemento, che però sta facendo l'armi, capisci? Sei uno stupido, ma non capisci perché. E sono malato, a piedini. No, non hai coglioni, no, non hai... sarebbe bello ficcarti un paio di camere, no? Perché non entri? Sto facendo, entra se da dire qualcosa. Pezzente. Giulio, ci sei ancora? E in banda, no? Vabbè, purtroppo se gli avessi arrivato così non so che libera. No, c'è da fare, no? Ah, non ti vergogni un pochino? Un pochino, non ti vergogni? Per niente, no? Vista l'età. Che stupido che sei. Me l'avevano detto, ma... Poveraccio, cazzo. Poveraccio. Hai dei seri problemi veramente. Perché ho guardato anche sul necrologio, se c'era qualcosa sul necrologio nel giornale, ma non l'hanno messo. so niente. Io di preciso non so di più, io so che è morto stanotte, poi non so di più perché quando è venuta mia cognata io non c'ero qua, me l'ha riferito poi mia moglie che mi aveva lasciato il messaggio a mia cognata, capito? No, non è morto stanotte, è morto ieri alle 2 del mattino, cioè avanti ieri, diciamo alle 2 del mattino, io l'ho chiamato ieri mattina a Salvatore, mi ha detto che era morto la notte, alle 2 del mattino, l'hanno trovata alle 4. Ho capito. Esattamente, mia cognata non era informata bene. Comunque abita lì vicino, nella casa a fianco, dunque, e per quello non l'ho saputo, capito. Una persona proprio, mi dispiaciuto tantissimo, oltre che per Salvatore naturalmente. Sì, sì, era voglia, l'ho conosciuto sì, da tanti anni anche, non da adesso, ma da tantissimi anni, mi dispiace, per lui e anche per Salvatore, chiaramente, tutta la famiglia, insomma, ecco. Sì, tutto sciatto, lo giuro. Ah, ok, sì, ecco, adesso non sono più sciatto. Ma ciao, vabbè, ciao a tutti. Ciao, Claudio, sì. Ok, ciao, sì, è così, purtroppo, non so quanti anni avesse, ma sicuramente era abbastanza anziano, Mi pare che sono un'ottantina ne aveva, però era abbastanza giovane, io ci siamo visti l'ultima volta, diciamo, a settembre, così, diciamo, quando sono andato da Salvatore, e stava abbastanza bene, però dicevo, negli ultimi mesi, stava soffrendo, ha avuto questi problemi qua, diciamo, da un certo punto di vista è meglio che se ne sia andato, perché stava troppo male, con Salvatore. Certo, quando la sofferenza diventa insopportabile è chiaro che è meglio, che non per lavorare male a nessuno, però io penso che l'individuo stesso quando soffre in una certa maniera preferisce la fine proprio completamente. È andata così, pazienza, vabbè. È una ruota, no? Lo sappiamo. Ma comunque la vita continua lo stesso. Purtroppo è così, vabbè, cambiamo argomento, vediamo, mi trovo un altro argomento allegro, sennò mamma mia. Vabbè, chi c'era? C'era Claudio, vabbè, Claudio ci sei ancora? No, riprendo, vi ascolto, ciao a te. Vabbè, sta un po' come lui, dai, Claudio, no, mi stavo a parlare. Vabbè, c'è arrivato qualcuno sul canale 10? Riprendo io, allora saluto a Claudio, ciao Claudio. È così, vabbè, dai. E cosa ci vuoi fare? Domani giocate o vabbè? Sì, domani sera giochiamo a Sorso. Ah, a Sorso siete, allora pensavo che giocavate in casa. Non sei venuto nel derby tu due settimane fa, c'era un po' lo spettacolo, c'è stato, ragazzi. No, non ci sono venuto, anzi, a dire la verità, in questo campionato ancora non ho visto nemmeno la partita, e sono sempre impegnato la domenica. Oltre al sabato anche la domenica, facendo sempre dei lavoretti qua, capito? Allora ci ho dovuto rinunciare. Ma una scappatina a vedere la partita già me la faccio senz'altro, magari alla prossima partita ancora, non domani ma l'altra ancora. Scappa, non c'è problema, già lo sai, quando vuoi. Dimmi una cosa, adesso c'hai un vicino nuovo con l'antenna vicina a te, lo so tutto. Con l'antenna vicino a me, io ne ho uno che è accanto a me, ma è un radioamatore, è proprio la casa a fianco alla mia. Poi l'altro, non lo so, c'è un certo, forse un amico di coso, di Natalino, credo, non mi ricordo come si chiama. No, adesso non mi viene il nome, qua uno che è stato ultimamente in frequenza e mi ha detto che la via, più o meno la zona, ha detto ma devi più avanti abita un'altra persona, un altro riferendomi a te, dico, ha detto boh, non lo so, abbiamo visto l'antenna, dovrebbe essere non penso più di 150 metri l'uno dall'altro. Sì, non è escluso, perché no, certo, è possibile, io ancora non ho visto l'antenna, so che c'è uno che abita qui alle Punti, che fa il lavoro che fa ad esempio Daniele, credo, va a consegnare la merce con la macchina, eccetera, e so che quello si stava appunto allestendo una stazione, però se poi l'ha completata definitivamente, non lo so, però bueno, dalla macchina sì, so che modulava dalla macchina, ma da casa ancora non l'ho sentito. Se non sbaglio, non vorrei confondere la via, se è quella o la parallela tua. Tu sei nella via della pasticceria, o sbaglio? Sì, io sono nella via della pasticceria, c'è la scuola guida di fronte, sono io. Allora siete nella stessa via, già mi ricordavo bene, non ero sicuro se tu eri in quella o quella parallela, anche lui è quella via lì, però lui è verso il campo, diciamo, verso la parte di su. Ah ecco, alla fine, ho capito, alla fine della via dove abito io. Di su non ci salgo mai perché giro prima, giro io. Io giro lì dalla piazzetta. No, pensavo che magari mi stessi parlando di un amico qui che abita qui accanto, ma quello era radioamatore, anche lui ha le antenne, no, ma non ci siamo mai sentiti chiaramente, anzi non lo posso sentire perché lui va in frequenze che dove io non ci posso entrare, capito? Il 27 lui non entra, dunque. Sì, però no, questo è possibile, penso che ci sia da poco, ci vedo che no. Adesso non vorrei confondere il nome, non ti voglio dire il nome perché non vorrei confonderlo con parte di un altro, però non c'è la moto, l'ho sentito qualche volta e mi stava dicendo che si stava montando la moto, ma lui nel coso, non ce l'aveva già montata, passa e se la doveva mettere fino, adesso non ho capito bene. Per cui ho detto, stai attenti che quando modulate tu e quello che c'è più giù, vi sciogliate le antenne a vicenda. Oh, problemi non ero io, al limite mi metto a volare qua e lì vedo gli splatter. E poi io sono sempre per la pace, ma non. Io sono fatto sempre dall'idea che chi prende i colpi si riprende e basta. Se li sento io li sentirà anche voi. Dunque, ma tanto il canale che usiamo è sempre quello, il 10. Poi gli altri canali, come avrai notato, non c'è mai nessuno, dunque non è che ci sono problemi. No, no, parlavo del discorso di Smith, non sai che era un colpo importante, ti scioglie lo Smith. No, assolutamente, io posso attenuare qua, se attenuo io nemmeno se hai qualche casa accanto, guarda, io no, con il mio apparecchio posso attenuare la modulazione proprio a non sentirlo proprio, ti puoi immaginare, no, non ci sono problemi, al limite posso sempre lavorare l'esperienza, no? Sì, ma c'è il rischio che attenuando troppo poi non senti gli altri. Ma per dire, io abbasso, io ti ho detto quello per dire, se poi te lo elimino completamente, mentre invece magari lo abbasso, lo attivo, ma parlo lo stesso, gli altri li sento perché li sento lo stesso, capito? Non ci sono problemi. Comunque c'è di nuovo la vetrocola portante giù, cosa vuoi dire, capo? Ti tiro fuori ma non benissimo. Negativo, ero io, scusate raga. Ah, tu eri, scusami. Alex. Vabbè, ci vuoi fare, sapportiamo, robe, casino futti, figurati, ossia che ci dia da vivere il baracchino, no, me ne futti niente, già entro poco, poi quel poco che entro, se c'è una rottura di scatole, figurati se io mi arrabbio per quello, casino futti, lasciali ammazzare, fare quello che vogliono, tanto. Io sono le stesse cose, lo stesso padre, la vita non me la rovina a baracchino, quando avevo un po' da culo, tanti miei oggi ci sono stato più del solito, perché c'eri tu e qualche altra persona, se no avrei spento subito immediatamente. Ok. Stavo ascoltando, no, ma io sono entrato intanto perché ti volevo dare quella notizia, ti volevo telefonare e poi invece ti ho sentito, ho detto va, mi sei considerato che c'è la portante, che sta disturbando, allora tanto male che interrompa io per dargli quella notizia, capito Robert? Solo per quello, solo se nemmeno entrato, mi stavo anche un po' addormentando qua, ero disteso sul letto, perciò perché non sto molto bene, la verità, oggi non sto molto bene. Sì, a tappa di vela, hai visto la giornata di oggi, cioè, mamma mia, ieri è una bellissima giornata, è così, come per non strano, a momenti ti fa una giornata soleggiata di 18 gradi di temperatura, il giorno dopo ci sono 6 gradi, che è uno sbalzo di allucinante temperatura. Purtroppo è così, e cosa ci vuoi fare? Anche quello bisogna sopportare, il tempo. L'inverno, io non l'ho mai potuto vedere, sinceramente, non ho mai potuto vedere l'inverno perché intanto mi dà fastidio mettermi troppa roba addosso e poi anche perché ritengo che l'inverno è una stagione altissima per il mio carattere, poi io sono favorevolissimo all'estate, anche se lo so che si suda, non me ne frega niente, la sera ti fa la doccia e ti riprendi tranquillamente anche da quella po' di stanchezza che ti si può addossare durante l'intera giornata, capito? No, non è un problema. Vabbè, comunque, andiamo avanti lo stesso. Ehi, aspetta, c'era per Antonio, tu vedi? O sbaglio? C'era poco fa, Antonio per poco, che li confondo, avanti. No, Alessandro che lo era. Alessandro sì. Vabbè. Già siamo qua, se vogliono bussare la porta è aperta. Ciao, ma poi prima c'era, come hai sentito, Gianni Reiti, non so se ci sei ancora attento. Gianni, se ci sei, fate un conto. Vediamo se Luca c'è. Attento Luca, ci sei? Oh, tutti scomparsi sono. Vabbè, dai, riprendete la vita. Meglio che... Vabbè, comunque, è andata così. Sì, che praticamente, ascolta, qual è il funerale? Niente ne sai. Guarda, per come ho sentito da Salvatore, mi ha detto che era oggi il funerale alle 3 in quella parrucchia dove vanno loro, quelle, la come si chiama, comunità che fanno loro. Ho capito, sì, ho capito. Da poco si è sposato il figlio, l'avevi saputo, sì? Sì, me l'ha detto, il più grande si è sposato. Ok, sì, infatti. Vabbè, è andata così, pazienza. Sì, beh, e tu come stai andando la storia della frequenza? Hai preso qualche altra cosa, qualche altra apparecchiatura, oppure hai sempre le solite cose? No, diciamo, vabbè, l'ultimo che ho preso è quello che sei tu, quello di Luca, che abbiamo fatto quella specie di scambio. Allora, Salvatore gli ho dato una cosa io, lui tramite un amico suo gli ha fatto avere quel iPhone e abbiamo fatto uno scambio, parole povere. E a Salvatore gli ha dato un apparecchio io e lui mi ha dato questo Luis che ci avrebbe dovuto prendere di Luca, quello che tu dovresti aver fatto le sponde laterali, se non sbaglio, ovvero? Sì, le ho fatte io, le pareti laterali le ho fatte io, sì. È vero, sì, perché quelle che c'erano erano distrutte, dunque le ho fatte nuove e via, così almeno è tornato luccicante. E ho capito. Oh, vabbè, adesso ti ho fatto una domanda un po' stupida, perché so benissimo che non ne vale la pena comprare niente dal momento che la frequenza è quella che è, vale poco, perciò è meglio tenersi quello che abbiamo e basta. Quando è possibile si parla, quando non è possibile pazienza. Vabbè, dai. Ieri sono dovuto andare a casa di Giulio, già lo sai, no? L'amico nostro, perché gli si era rotta la serratura dell'ingresso, della porta d'ingresso, e gli ho dovuto scassinare la porta, ma senza rovinargliela, però gliel'ho aperta senza fare un minimo graffio. La bella, no, non è blindata, fortunatamente non è blindata, comunque sono ho agito in una posizione dove non ho fatto niente. L'unica cosa che deve fare è cambiare la serratura, perché giustamente quella la serratura di sicurezza è ormai si era guastata e quando è così bisogna cambiarla, perché sennò ti fa sempre difetto. Già lo so, queste serrature di sicurezza, non so quante ne portano, non si fa male, anche un paio di inquilini di mio padre, hanno queste lamelle che se non la chiudi completamente la serratura, molte volte ti va così di chiudere la metà, poi infili la chiave, la furti, si piegano le lamelle ed è un problema, non esce la chiave. Sì, infatti è un problema, sì, anche perché le serrature di sicurezza al minimissimo difetto bisogna subito intervenire, perché intanto è solo una questione di tempo e poi ti si blocca e sono problemi solo. E a quanto era più bello il crocco, te la metti? Lo crocco, lo sai che ne ho uno in falegnameria, ne ho, antico, aspetta, ma proprio di quelli antichissimo, si vede, l'ho messo da una parte, ho fatto, non si userà mai più, però, visto che ce l'ho, a tenerlo in un angolo non mi costa niente. Sono belle cose, mi proprio parlando di cose antiche, c'è mio fratello, vabbè, io sono appassionato di roba d'epoca, di tutti i generi, di qualunque genere, dalla mobilia, gli accessori, gli apparecchi, eccetera, eccetera. Proprio oggi, anzi ieri, c'era una vecchia scala di mio nonno era un vecchio muratore, non so se l'hai conosciuto, il padre di mio padre, e una scala di quando lavorava lui, cioè avrà 70 anni questa scala, era mezzo consumata, cioè non esisteva più oggi, ma mio fratello c'ha un sopparco a casa sua dove abita lui, e invece è tutto in legno, tutto rustico, anche povera, ecco, volevo cercare una scala, e alla fine ha preso quella di mio nonno, l'abbiamo tagliata a metà, e oggi gli ha dato un'impregnata, l'ha rivitalizzata. ho capito, sì, sì. No, a me le cose antiche mi piacciono solo le cose elettroniche, basta, poi per il resto no, io preferisco le cose classiche, quello sì, che dunque non sono antichissime, ma comunque ci sono dei bellissimi mobili che ne vale la pena, ad esempio tipo qualche salotto, qualche bel mobile da camera da pranzo, ce ne sono tantissimi, veramente, che valgono anche tra l'altro. Ecco, cioè bisogna che sia una cosa veramente di valore per piacermi, se no mobili tipo cassette come una volta, anche se hanno 200 anni, no, non mi piacciono, capito? Preferisco i mobili classici, io infatti qua ho tutta roba classica e via. Sì, sì, già lo sai meglio di me il legno, quello che vale, la qualità del legno sicuramente non ti sogna niente nessuno, no, c'è ragione, però dico c'è classico e classico, diciamo sono pezzi d'epoca o rifacimenti di pezzi d'epoca, che sono due cose diverse, no, io cerco dove posso andare a cercare dei pezzi per quello che mi posso permettere di andare su un classico legno di qualità, non incallacciato o rivestito con un truciolare dretto. Sì. Come è andato? Penso di sì, adesso stiamo parlando tranquilli. Sì, ma c'è la contro di me. Può darci pure, comunque avendo la contro di te disturbava anche gli altri, dai, io non so se ce l'abbia fatto in particolare, in ogni caso l'ha disturbato a tutti, dai. No, ce l'ha. Non lo so, già, non so cosa dirti, non lo so, io non ti voglio dire di chiudere perché non mi piace, mi fa piacere che rimani, però a questo punto, al posto tuo, avrei deciso tutto. Sì, no, ma se... Aspetta l'amico trasportante, una cosa solo ti dico. Poi vado via, no, già chiudo, non ti preoccupare. Ti chiudo la bocca, attenta all'uovo. Vado a fare video, Non lo so, già vedo un po' tu se riesci a rimanere, non lo so, c'era sicuramente contro di te, io non lo so. Vabbè, Giulio, riprendi tu. Sei ok. Vabbè già fregati, non è il caso arrabbiarsi per tanto, Baracchino non ne vale la pena arrabbiarsi per Baracchino, già fregatene, non è problema. Oggi è toccato a te, domani tocca a me, domani dopodomani tocca a Roberto e così via, è un giro, è una ruota, già, non è un problema. Vero Roberto? Ma figurati. Vabbè, a me non mi tocca già, Giulio, la lo sapete, appena vedo che sta disturbando a me, cioè nel senso che appena entro io attacca, spengo tutto, vi saluto, saluti e baci. L'unica cosa. Baci e abbracci, vero Robby? Sì, vabbè. Andiamo. Sì, ti stavo dicendo, di radio antiche io ne ho, sì, ne ho, di cui tre hanno anche il fono, hanno quelle, ho un Radio Marelli, poi che cosa ho? Poi ho una Sinudine, poi le altre marche non me le ricordo nemmeno, tu pensa che ce li ho tutte scatolate su in mansarda, però bisogna che li tiri fuori perché sennò mi si spaccano i condensatori elettrolitici e poi magari mi tocca magari ricambiarli, no, perché li avevo già ristrutturati da prima, li avevo già da anni, sia il mobile che il telaio e tutto il circuito eccetera eccetera, no? Però lasciandoli sempre così si seccano i condensatori e poi si spaccano, anche se so benissimo che li alimento poi piano piano, anziché dargli 220 magari gliene do, che so io, 80, 90, 100, 110 e così via di tensione, e si riprendono poi anche, però potrebbero anche spaccarsi definitivamente, allora in quel caso vogliono sostituirti, capito Robert? Sì, ha già detto qualcosa, io ne ho 35 di radio, 33 di radio, parliamo di radio a valvole d'epoca, diciamo di quelle alimentate a 220, più qualche durata di quelle, diciamo, veicolari, chiamiamole veicolari. E so cosa vuol dire, condensatori a olio, col tempo si seccano senza di liquido, attacchi, fai un sacco di fumo e si rischia che rovini tutto. Beh sì, perché saltano e se le lasci troppo tempo o si asciuga la detrolitta e allora a quel punto lì, quando appena gli attacchi, poi si spaccano e non... Però diciamo che quando è prudente fare in questo modo, quando tu hai una radio che è tanto tempo ferma così, io parlo per i condensatori elettrolitici chiaramente, non per gli altri, e devi alimentarla un po' per volta, perché dagli 220 se hai un trasformatore per dire non so, un 110 e cominci ad alimentarla in quel modo e piano piano poi si adeguano e si riprendono più delle volte, però tantissime volte si spaccano e allora in quel caso bisogna per forza sostituirli. Sì, ho detto una cosa giusta, vabbè. Io qualcuno l'ho rovinata, purtroppo anche per la fretta per di sentirla. Ne ho una invece che è quella la migliore che ho, la voce del padrone, la più preziosa, tutta in radica di noce, eccetera, eccetera, bellissima, la migliore, diciamo, la più preziosa, quella lì è una bomba. È la più vecchia in assoluto, perché degli anni, fine anni 20, questa è proprio vecchissima. C'è una ricezione con la radio lì è una bomba. Cioè, mi sembra un. Ma ti posso dire 5-6 gambe d'onda, ma c'è una ricezione, un suono spettacolare, peserà una quindicina di chili con la radio, però è spettacolare, io ne ho tantissime, ti ripeto, però questa come quella lì non ce n'è per nessuno, cioè con le valvole grosse, con le grandi. Sì, beh sì, certo, e io dunque, nella, aspetta in quale radio era, nella Radio Manese mi sembra, avevo fatto anche un paio di trasformazioni perché non trovavo, ad esempio mi serviva la valvola finale, la 50L mi sembra, una cosa del genere, se non ricordo bene la sigla, ma grosso modo una, comunque una valvola che funzionava a 50 volt, perché 50 significa il voltaggio della valvola. L'ho dovuto sostituire con la, aspetta con quale? Con la 6LC mi sembra, una cosa del genere, sì, quella mi sembra, se ricordo bene, adesso non me lo ricordo perché sono passati degli anni, naturalmente ho dovuto fare una modifica all'autotrasformatore perché in modo che mandasse la tensione di 6 volt anziché di 50 come inizialmente era nato l'apparecchio, capito? E poi mi mancava anche la raddrizzatrice, mi mancava e allora ho preso due diodi, ho preso e li ho inseriti dentro una zoccolatura della portavalvole e l'ho sistemato. Pensa che questo era buttato addirittura in una cantina in mezzo a dei detriti. Un giorno sono andato per consegnare un lavoro e ho messo questa radio, no? E c'è questa cosa qua, noi lo stiamo buttando, fatto, posso prendermelo? Sì, me l'ho preso e dunque poi io me l'ho portato in bottega, l'ho rimesso a posto come mobile e poi anche tutta la parte elettronica, capito? E tante altre cose che adesso non so ad elencare, che insomma la passione non muore mai, ecco, la passione per l'elettronica. Ehi, sì, no, bellissimo. No, 6LC ce la dovrei avere qualche valvola. Io ne ho, se ti tratta qualcosa, mai vediamo un pochettino, me le porti e le confrontiamo. Io ne ho diverse. Ne avrei potuto avere qualcuna di più, purtroppo quello che me le doveva dare si è venduto la casa e c'erano buttata nella mondetta, ne aveva centinaia di valvole in un paesotto, questo amico mio radiotecnico mi ha detto guarda ne ho due cassette piene di valvole, vieni e te le prendi, doveva andare, poi alla fine hanno preso e ci hanno buttato tutto. Sì, beh certo, no, ma si trova, allora, si trova nel continente, poi io so anche rivolgermi, c'è Emanuele che ne ha uno scatolone, valvole nuove, mai da quando aveva il laboratorio, dunque non è un problema, io quando mi occorre la prima persona che chiede a lui se mi occorre una valvola, se lui ce l'ha va bene, se no la procuro da un'altra parte, ma di solito diciamo che mi ha disimpegnato sempre, capito, perché lui ne aveva rilevato un coso, un magazzino, di valvole, una scaffalatura piena e ancora ne ha tante, anche se adesso il laboratorio non ce l'ha più, perché in pensione chiaramente. Capo, ma Manuele, dove ce l'aveva? In via 4 novembre passo per caso il laboratorio? No, ce l'aveva a 100 metri vicino a me, dove sono io, no? No, perché c'era un tipo, lo stesso che ne aveva una marea di queste radio antiche, accumulate da anni, un vecchio riparatore. Non so se te lo ricordi, dietro in via 4 novembre, prima di arrivare a cos'è, piazza d'Arte, quella lì come si chiama? Ho capito quello che stai dicendo, non ricordo come si chiama quella. Sì, ma ho capito comunque. Sì, sì, no, no, Emanuele, no, perché quando aveva smesso di lavorare per la ditta, diciamo, dove lui è stato una ventina d'anni anche di più, allora si aveva preso lui tutta l'attrezzatura e tutto il laboratorio, e dunque c'era anche molto materiale, no? E le valvole chiaramente se le ha prese tutte, e non è che le butta, si sa, le valvole bisogna conservarle, forse via qualcuno e chiedendole magari a lui può essere anche in grado di fornirle quello che servono, capito? Perciò ne ha tante, ma non so, sono valvole, anche altri materiali. Sì, vabbè, se è un vecchio riparatore sicuramente sanno, loro hanno lavorato nel stato con le valvole, no? Noi con i trenzi. No, io già sono abbastanza, adesso un po' di meno, perché non ho più tempo, mi sono appassionato qua alla trasmissione, ma prima ero grandissimo appassionato di radio e tutto quello che era inerente alla radio, diciamo il collezionismo d'epoca delle radio, e ti ho detto ne ho tantissime, più di 30 ne ho, e poi addirittura ho anche quelle a mobile, ti ricordi quelle vecchie che c'erano i giradischi, e che facciano tipo mobile bar eccetera eccetera. Sì sì, e come no, io ne ho tre di radio con giradischi, ti puoi immaginare, non è che ho fatto un sacco di esperimenti, sono una vita, io ho sempre attaccato al saldatore, ti puoi immaginare, solo adesso da 4 anni a questa parte non sto facendo molto, perché da quando mi sono trasferito qua il tempo mi manca, e poi ero anche impossibilitato, perché sai, dovevo sistemare certe cose, e poi mi mancava non il posto, perché il posto ce l'hai a 10 volte di dove abitavo prima, però non avevo il modo di poter lavorare in quanto la casa qui ha più di piani, ma adesso ormai mi sono sistemato, e dunque posso ricominciare quando io voglio, insomma, ecco, non ci sono problemi, e ho fatto le cose, una volta avevo costruito una radio a reazione a valvole e avevo bloccato tutte le trasmissioni della zona dove abitavo io, perché c'era qualcuno che mi stava rompendo il capo, e negli anni passati mi diceva che io facevo TV, invece non era vero, non dipendeva da me, era l'antenna della dove abitavo, che era centralizzata, ed era un problema, era. E dicevano che io lo facevo, allora mi sono comunicato, beh, sono bella ragazza, cioè così le faccio, anche le medie le faccio. Mi sono fatto una radio reazione, l'ho attaccato, sono stato una settimana con la radio accesa, nessuno in tutto un po' di giorni vedeva nessun niente, perché la reazione è su in maniera impressionante, o robe. Calma. No, io lo stesso, vabbè, non ho costruzione di quel genere, non l'ho mai fatto. Quando abbiamo iniziato con la FM, il primo kit di quelli di modulazione frequenza, l'8808, l'avevamo fatto in compagnia di qualche amico, poi ci sono state le evoluzioni. E poi mi hanno regalato un paio d'anni fa un vecchio appassionato, diciamo, un fratello di mio zio, di una certa età, mi ha regalato di quei kit, lui aveva fatto la scuola radioelettra, mi ha dato tutte le fotocopie originali del 1952, stiamo parlando, ma tutte a macchina, da filo scritte, proprio all'epoca non esisteva il computer, si battevano a macchina, c'era tutta la teoria della cosa, della radiotecnica, c'era anche la conservata, infatti mi serviranno anche per il discorso dello studio della patente. Sto studiando anche da lì, e mi ha regalato una radio da lei, la galena costruita da lui, bellina lo stesso, sul circuitino, con la galena dentro, bello, proprio la bella cosa. Sì, Radio Valenne ne ho fatto, ecco, oggi ce l'ho una ce l'ho, Radio Valenne ne ho fatto tante, tu, e guarda, un giorno mi sono messo in bottega, ho preso per una tavoletta di legno, ho preso un pezzo di tavoletta, ti immagini un pezzo di tavoletta che sono io, sarà stata 10 cm per 10 per 10, una cosa così, e ci ho fatto un circuitino così, in presenza di una persona, ma scommetti che ti faccio una radio qua così, e già, poi, beh, questa radio è diventata gratuita, cosa vuoi dire, il divertimento della zona, perché poi l'ho regalata. No, l'ho preso, l'ho regalata a questo ragazzo, una venista che abitava, cioè che aveva l'officina di nel poticato di Pianura, e con questa radiolina andavano in giro, aspetta, scommettevano i panini imbottiti, poi scommette, dice guarda ti piace questa radio, si leva, no? Perché era tutto in aria, era questo così, no? E però funzionava, prendeva tre stazioni della RAI, prendeva, e anche Radio Monte Carlo prendeva. E la gente che scommetteva, scommetteva che ti va poi tu senti di questa radio, e poi non si muore lì, sai, e poi se ti dico con la radio, scommetti, fai quella, un panino imbottito, e così via. C'era quel negozio a Francamè che si stava arricchendo, si stava dei panini che andavano a comprare, perché con lui non faceva altro che vincere i panini. E alla fine ho dovuto fare dietro che è grazie a Dudru. No, no, è una bella cosa. Le cose sono veramente belle, proprio l'albore, diciamo, della sperimentazione, sono le cose belle, che poi quando la costruisci tu una cosa è sempre, dici, amico, l'ho fatta io, dà una soddisfazione diversa. Allora, no, no, è bello, come ho detto. Mi ricordo tantissimi anni fa, allora quando io gareggiavo eccetera, che ero ragazzo ancora, sempre, perché ripeto, la mania ce l'ho avuta da ragazzino per la radio eccetera, e mi ricordo allo stadio dei Pini, avevo portato allo stadio dei Pini, avevo usato come antenna, avevo usato la rete di recensione che c'è tutta attorno allo stadio dei Pini, quella a basso, no, dove... incredibile, cose che non ho combinato. E allora prima già si poteva fare, adesso è tutto diverso, non puoi ricevere niente adesso, se non hai un'antenna specifica con tutti questi disturbi che ci sono, telefonini, stazioni FM, radio, cioè televisioni, ormai è talmente sacro il coso, lettere, per cui per ricevere è impossibile adesso utilizzare una radio a galera. No, ce l'ho e funziona sempre quello che ho, vabbè, non ci sono problemi, addirittura posso attaccare, siccome c'è un filo di terra, chiaramente, è l'antenna, posso attaccare anche come filo di terra, posso attaccarla al radiatore e l'altro posso attaccare anche al cavo della televisione, ti vuoi immaginare, si sente, io ce l'ho sempre, questo l'ho messo nella scatoletta, c'è una bobina naturalmente, un condensatore variabile di quelli alla merda, di quelli una volta, no? Bene, questo diodo e le cuffie ad altissima impedenza, perché se no non ce la fa, perché allora non ce la farebbe. Delle cuffie ad altissima impedenza, mi sembra che sono 2000 ohm o una cosa del genere, grosso modo, e ce l'ho sempre conservato, e non è, anche da poco l'ho preso, l'ho attaccato, ci ha preso, funziona ancora, ci ha funzionato, ci sono bene. Cioè riesci ancora a ricevere dei segnali? Sì, io ricevo sempre la RAI la ricevo sempre, sì. Infatti mi ricordo negli anni passati, no, quando io abitavo in casa in affitto dall'altra parte, di punti, ero qua, dall'altra parte, il giorno della mancata la corrente, io stavo ascoltando una partita, e allora cosa ho fatto? In fretta e furia, ho tirato fuori, voilà, e mi sono messo quello, mi sono collegato al rubinetto di casa, mi sono rubato come massa, e questa, poi a un certo momento ha segnato la Juventus, ha segnato, io in un certo senso ho un po' esultato, e c'è la Madonna, e cosa è successo? Mia moglie, la partita, ascolta, come la partita? Se non c'è luce, se non c'è corrente, perché allora è salotto, io in cucina, capito? No, è una radio che si è fatto lui, cioè, sta ascoltando la partita anche senza alimentazione, senza corrente elettrica, senza niente, senza batterie, niente. Sì, vabbè, tu ce l'hai molto vicino, c'era la cucca, il fotoripetitore, per cui ti arriva a bomba 24 ore su 24, senza aspettare la notte, per dicembre. Non lo so, una volta era San Giovanni, adesso San Giovanni non c'è più, comunque lo sento sempre, adesso non so da dove arriva il segnale, forse adesso è la cucca veramente, non lo so. Prima quando passavo lì San Giovanni lo vedevo, la radio, il coso, l'antenna la vedevo, infatti quando passavo lì sotto arrivava bomba. Chiaro, poi chiaramente da lì l'hanno tolta, non so per quale motivo, forse perché una volta un amico che lavora a Carnola, lavorava alla Sippi, allora era Sippi, oggi Telecom, mi aveva detto che entrava nei telefoni il segnale radio. E allora loro avevano fatto una nuova linea con un cavo particolare schermato al massimo e avevano eliminato l'interferenza, capito? E il telefono allora funzionava alla grande senza l'interferenza del ripetitore radio, capito? E sei credo. Ciao Giulio, ciao Robert. Ciao Natalia, senti, no. Ma cosa è questo fatto? C'hanno 25 kW, c'ha la stazione Giulio. Non lo so con quale potenza escono, questo non te lo so dire, ciao Natalia, non te lo so dire, non, No, vabbè, anche perché intanto cambiano, eccetera, eccetera. Io so solo che prima, quando facevo l'elettricità all'antimica, ci volevano un sacco di cose, ci volevano un sacco di accorgimenti, se no televisione non le vedevi. Oggi basta un pezzetto di ferro buttato sul tetto e vedi il segnale, oppure ascolti la radio tranquillamente, no? Non sono problemi. Sì, sicuramente è tutto diverso, adesso utilizzano antenne più, con le trasmissioni sono molto più evolute, dai. Sono ponti ripetitori molto più in alto rispetto a prima, guadagni molto superiori. Infatti tutto un altro discorso, l'evoluzione c'è stata anche in quel settore lì, infatti dei ripetitori alla grande, proprio anche perché prima se ne contavano pochi, invece oggi basta che ci sia una piccola montagnetta, c'è un ripetitore, sì, che ti puoi immaginare, a voglia segnali. Cappa. Sto guardando adesso, sui 207 metri trasmette da Sassari, Sassari 2 si chiama, 1448 kHz, 5 kW. Ti puoi immaginare 5 kW, un po' credo, lo so io, figurati un po'. Beh, certo, prima il segnale era scarso perché erano i primi anni, diciamo, quando è arrivata la TV, ma poi naturalmente hanno rinforzato tutto, hanno messo diversi trasmettitori e tutta un'altra cosa, no? Infatti io mi ricordo che in quegli anni lì prendevo un segnale tante volte, meglio da Bade Urbala, prendevo che da Sassari, che da Monte Oro, secondo nella zona di Sassari dove mi trovavo, prendevo meglio il segnale da Bade Urbala che da Monte Oro, capito? Sicuramente molte posizioni sono. Ce ne sono due comunque di Sassari, c'è Sassari 3 che trasmette con 2 kW sui 1367 e sui 1448 c'è Sassari 2 con 5 kW. Niente da dire con le frequenze che trovi a Roma, 300 kW, 500 kW, quelle Milano ci sono 50 kW. Lo so, dipende sempre dalla conformazione del territorio, a secondo del territorio che devono coprire, chiaro, no? Hanno fatto i ripetitori a secondo dell'esigenza territoriale, capito? Natali! Oh. Non parli! Ah, ho capito, vabbè, allora attacca la casa per che scende, dai. Vai, Robè. Eia. No, adesso vabbè, non è ascoltato nessuno di Onde Media, prima già si ascoltava, poi così Radio Monte Carlo era come può essere la canale 5 adesso della televisione. Sì, certo. E Radio Monte Carlo, Tele Monte Carlo addirittura, io mi ricordo che prendevo Tele Monte Carlo, cioè mi spiego, dove abitavo io prima, c'era l'antenna centralizzata, era un'antenna centralizzata di vecchio stampo, praticamente era adatta solo per il primo e per il secondo canale, gli altri canali poi, soprattutto quelli privati, non entravano e poi c'era un padrone di casa, con la testa un po' quadrata, nel senso che non voleva che salisse sul tetto, tant'è vero, allora io cosa ho fatto? Mi ero installato la mia antenna personale nel poggiolo di casa e io prendevo Tele Monte Carlo, prendevo direttamente dall'isola d'Elba, oppure che so io, quando è arrivato il terzo canale, Rai 3 Toscana, quando Sassari ancora non esisteva Rai 3, e io avevo il tubo attaccato alla ringhiera e ce l'avevo tutto segnato, no? Quanto poteva girare, 360 gradi, e io a 360 gradi avevo fatto dei vari segni e mi prendevo i vari canali, capito? Si può immaginare, Robè, addirittura all'isola d'Elba prendevo Tele Monte Carlo quando Sassari ancora non c'era praticamente, capito? E poi l'aveva portato Fusano, aveva fatto il ripetitore da Lembara e era stato lui prima a portare Tele Monte Carlo. Tu addirittura riuscivi a riceverlo da Sassari con una direttiva. Dall'isola d'Elba io giravo l'antenna verso il mare, giravo verso su e puntavo, avevo praticamente indovinato il punto giusto dell'orientamento dell'antenna, no? Ed era direttamente all'isola d'Elba, perché dall'isola d'Elba arriva direttamente al mare, tu lo sai, no? E io lo prendevo diretto, lo prendevo. Ma sarebbe un grosso amplificatore sicuramente, no, non so che arrivava dall'isola d'Elba il segnale, poi da Rimbara lo ripetevano a Monte Oro. con tramite i punti di Fusaro. Però dico, tu dicevi la prebattuta per l'isolata del Monte, in qualche zona che vedete il mare. No, no, assolutamente, io ero qui ai punti, con l'antenna installata nella finestra del primo piano, nel poggiolo, attaccata alla ringhiera, ho messo le staffe, puntavo lì e riuscivo, evidentemente c'era una canalizzazione giusta e io riuscivo a percepire il segnale, a prendere il segnale di Tele Monte Carlo, tranquillo, prima addirittura che facesse il ripetitore via a Monte Alvaro o Fusaro, addirittura, ti puoi immaginare. Beh, non era evidentemente ero in una posizione, una zona dove lì c'è un varco, capito? E riusciva a passare Robert. Perché c'è anche l'acustica davanti, probabilmente si calava in qualche vallata, in qualcosa, qualche riflessione, perché riuscire a prenderlo così non è facile, probabilmente è una zona favorevolissima, è impossibile se no che riuscisse a prenderlo. Certo, beh, così, in effetti è così, beh, anche con Baracchino, se per quello, io mi ricordo c'era un amico, un certo Ivan di Usilo, un rappresentante di Mobili, che è un mio coetaneo praticamente, lui aveva il baracchino e si parlava la notte, io, lui e una certa ragazza dell'isola d'Elba stesso, lo sentivo bassa bassa, però lo sentivo e anche lei sentiva me, mentre invece Ivan di Usilo arrivava molto bene come radio, come segnare anche, tutto di notte, immancabilmente noi facevamo questo, io, Ivan e questa ragazza su un canale qualsiasi che poi decidevamo, dove non c'era Macello in frequenza, perché allora in quel periodo ce n'erano dei TB e tanti canali anche occupati. E evidentemente c'è un varco da dove ero io prima, a quella zona lì, proprio omicidiale, roba. Ehi, aspetta, sei arrivato a Natalina, avanti Natalina. Ehi, sono rientrato, Ok. Ehi, ti ricordi, noi i primissimi assalti, non so se avevamo la televisione francese, ti ricordi? Tu non so se lo facevi, probabilmente sì, anche tu Giulio. La televisione francese è una stupidaggine prenderlo, non ci sono problemi. Quello basta mettere l'antenna, ad esempio l'antenna dell'LPD, tanto per fare un esempio, è direttiva naturalmente, con diversi elementi che abbia un certo guadagno, e riesce a prendere il canale francese, il canale 21, non basta e arriva diretto, basta avere l'antenna giusta con un amplificatore chiaramente, che abbia un ripple molto molto basso, proprio con un circuito di rumorosità bassissimo, perché sennò il rumore del ripple supera l'immagine, allora non ce la farete, capito? Però ci sono, basta chiedere il materiale giusto, esiste. Sì, ma non sto parlando di adesso, io sto parlando quando ci avevamo ancora il primo e il secondo canale, neanche nero, sto parlando 35 anni fa, noi ce l'avevamo, mio padre l'aveva messo, ho dovuto comprare un televisore Seccam, perché il canale francese trasmettono in Seccam, adesso sono tutti multistandard, non ci sono problemi, ma prima eravamo tutti televisori Seccam, dovevi trovarlo apposta, ce l'ha fatto portare da questo amico suo, l'avevamo messo un'antenna enorme per un guadagno allucinante. E un palo altissimo e riuscivamo a vedere il canale francese, il TV France 1. Sì, ma guarda, si poteva fare anche prima, perché bastava prendere un televisore e gli mettevi un diodo al rovescio di come è montato, no? Praticamente un doppio diodo, uno per il sistema PAL e uno per il sistema Seccam, e si riusciva con una buona antenna a prendere il canale francese, una piccola accordatura che dovrebbe fare senza nessun problema, e si è fatto tante volte quel discorso lì, un semplice televisore, no? Perché loro lo trasmettono all'incontrario di come, per dire, non so, sulla frequenza dell'audio loro trasmettono magari un segnale e così via, capito? E allora bastava mettere un diodo invertito in un certo punto del circuito, anche un commutatorino, in modo che potevi commutare sia l'uno il diodo o l'altro, e si riusciva a sintonizzarsi sul canale 21 della Francia, capito? Vabbè. E era fattibile da sempre quello. Sì, no, non sto dicendo che eravamo gli unici che ce l'avevamo, sto dicendo che all'epoca era talmente rispetto al discorso di televisione, delle televisioni, lui c'aveva il primo e il secondo, poi qualcuno si metteva, quando è uscito per l'obiettivo Sardegna, anzi più di qualcuno, e qualche altro, ma un po' più evoluto, si metteva ai canali francesi, invece ci voleva la versione video, come hai detto tu. Noi avevamo due apparecchi diversi, dietro la camera a letto ce n'erano due, uno con una calata per la Francia e l'altra calata per ricevere canali italiani. Ho capito, sì sì, evidentemente quello l'ha già fatto apposta, tante cose, perché una volta io ho sentito il carcere dell'Asinara in una radio, manovrando le medie frequenze, spostando, facendo compensatori, eccetera, sono riuscito a ricevere addirittura la radio del carcere dell'Asinara, ti puoi immaginare, e quanti esperimenti che si sono fatti, una vita attaccata a queste cose. Poi sai, stando, perché io sono stato un bel po' di tempo anche insieme ai radiotecnici, prima quando ero io nel settore, e poi quando si è avvicinato anche Emanuele, lì dove sono io adesso, allora ne parlavamo sempre di queste cose, sai, una parola uno, una parola l'altro, un consiglio uno, un consiglio l'altro, ed ecco che io riuscivo a realizzare anche queste cose qua, capito? Sì, avanti. Guarda un po', adesso sono con quello piccolino, come va? Con quello piccolino tu stai arrivando, 9 più 10 quasi qua. E vabbè, quello che sai, lo stavo provando a vedere come va. Va bene, va benissimo, quasi 9 più 10, 9, 7, 9, 8, là, siamo lì, va benissimo, la radio è chiarissima, pulita, bella. Va bene. Va bene, da te. Il segnale sta dicendo? No, la radio più che altro mi interessa. Il segnale è relativo. Nel basso la radio. Per me arrivi male. Buonasera. Sì, no, vabbè, lo stavo dicendo anch'io, la taglia un pochettino più alta dovrebbe essere. Rifà un passaggio e ti dico, ti sto guardando, dai, e dimmi un po'. Eia, guarda un po', 1, 2, 3. Dovresti sollevare un pochettino, sei bassino come modulazione. Comunque è chiara la radio, niente da dire. Magari mancano un po' di tonalità acute, però è chiara, non ci sono problemi. Guarda che il microfono normale è questo, non puoi saltare nulla. Vai bene. Ciao Manò, è lui quello che mi ha messo sulla cattiva strada elettronica, cioè che ha continuato a mettermi, vabbè, è lui mi picchiamo forte. Ehi, ciao Manò, l'hai sentito? Buonasera, no, stavo consigliando a Natalino che dirgli che esce un po' fuori qua, fuori frequenza, non sente bene. È un macello, buttalo via, quella che c'è la rete da parte mia. No, ma se lo butto su guapa, vengo e te lo porto. No, grazie, e dove le metto? Con tutti quelli che ho, no, grazie. Dai gli acuti, dalli, che già c'è meglio. No, che devo fargli della roba, no, ancora non è pronto. Vabbè. Parlate uno per volta. Chi era quello? Antonio era? Ragazzi, uguale. Ciao Alessandro. Ma come mai non ho sentito più il tuo fratello? Si è stancato del baracchino? Lui si stanca in fretta delle cose. No, lo faccio da sempre già, magari non lo sta usando perché sta facendo lavori adesso, non ha tempo di farlo. Ho capito. Insomma, l'ha messa in funzione la bottega, tutto a posto, sì? Sì, tutto rosa. Ah, meglio così, sono contento. Lui è giovane e deve continuare a lavorare ancora, dunque deve darsi da fare perché bisogna produrre in Italia. Non fare come ha fatto Emanuele, no, che quando era giovincello ancora ha abbandonato il laboratorio per prendersi la pensione. Hai fatto bene Emanuele. Perché dovevo lavorare per lo Stato? Non ho lavorato abbastanza. Te l'ho detto, adesso ho pensato che non mi ritiro tutto. No, come si dice in sassanese? Non muovo. E fai bene. Fai bene, ma noi... Vabbè, stavo raccontando un po' di storie a lei, a Roberto, visto che eravamo soli, io e lui. Avanti, dai, raccontaci qualcosa tu, quello che ti piace. Se hai soldi, passacene un po'. Giulio? Sì, avanti. Mi sta intercetto da questa radio, quella di Natali. Beh, questa è migliore, ma probabilmente è la timbricatura che è più buona, diciamo, più chiara, nel senso che tanto decisamente più forte, ma di poco però anche quella realtà di non mi piace, è bella, bella lo stesso. Comunque questa è ultima. Non sta a finire. Questo è un effettino 950 della IES, e quello è la stessa categoria. Vabbè, microfono normale. Sì, questo l'ho capito, microfono normale, ultimo comunque, una radio piacevole da ascoltare, senza abolutti, insomma, ecco, bella, chiarissima, pulita, soprattutto. Avanti, vabbè. Ciao, Walter. Chi è Walter, eh? Va bene. Ciao a tutti, rimangono ascolto, non sono Walter, sono Claudio. Ah, sì, Claudio. Buonasera, Claudio. Ti ascolto basso che sono col di poro, chi è? Gianni, sì. Ah, ciao Gianni, non hai sentito? Sentito, Claudio. Ti sento diverso di radio dalle altre volte, non so, ma io sono col di poro. Ciao ragazzi, io sto uscendo. Ciao Manuel. No, non ho antenna qua Gianni, sto uscendo con il polo, sto usando la radio decametrica, una radio amatoriale. L'FT950 della IES. Va bene, ciao a tutti, volevo solo sentire la comparazione tra quella di Natalino e questa. Riprendi Roberto, rimango in Quirix. Sentiamo, ciao a tutti. Ehi, allora, riprendo io. Però stavo dicendo, vabbè, stavo continuando il discorso Gianni con Giulio, saluto anche Emanuele, anzi. Che è andato via, riprendete voi, vi saluti là. Ok, riprendo io allora, ciao Manuel, ci sentiamo. Ciao Claudio, buon ascolto. Avanti Gianni Ditti, c'è anche Natalino, eh? Natascia! Ehi, a suoi noghe, ciao Gianni. Hai disotterrato la carriera? Ehi, l'ho disotterrata. Grande. Natali, quando tu ti avvicini la bocca al microfono, satura, distorsi un video. Perché ho spento l'equalizzatore, capito? Perché non lo so manovrare. Capito? È meglio lunedì la porto a quell'amico mio e mi faccio dire come si fa. Capito? Però è uguale a questo il sistema del menu, è preciso identico. Tienilo in on perché è in off l'equalizzatore, va in automatico. Aspetta a vedere, te lo metto. Claudio, confermi che quando si avvicinava al microfono distorceva? Sì, distorce. Ma deve tenerlo in on l'equalizzatore, altrimenti tende a strappare. Le radio sono, questo è il padre e quello è il figlio, ma il sistema di menu è praticamente uguale, non cambia niente. Ho capito, sì. Va bene. Roberto! Eia, vabbè, no, stiamo parlando di vecchie TV. Ti ricordi quando c'era Teleobiettivo Sardegna? Come non lo ricordo? Qualche volta ho usato anche l'antenna del Teleobiettivo Sardegna. Come cosa? Come il VHF marino, ti puoi immaginare, perché più o meno la lunghezza d'onda era quella, non è che capito dove. L'obiettivo era in orizzontale, o sbaglio l'antenna, o in verticale si metteva? In orizzontale era, perlomeno qui a Stazia era in orizzontale, in altri paesi non lo so, ma qui a Stazia la polarizzazione era in orizzontale. Ma tu la montavi in verticale invece nel VHF? No, la telefono in orizzontale era l'antenna della televisione. Prendevo, mettevo la prolunga, me la portavo vicino, me la portavo al baracchino e la usavo così, cioè al baracchino, al VHF marino, non al baracchino, al VHF marino. Ah, ma cos'è la canale F, mi pare, se non sbaglio? No, canale... Aspetta, forse B, adesso non me lo ricordo, ma mi sembra che era canale B, boh, non me lo ricordo più, no. Già, cosa te la ricordi tu? Se lo dici lo sai bene, poi me la ricordo così vagamente. Non sarai così giovane che magari non te lo ricordi, quanti anni hai tu? 40. No, questo ti faccio lo più grande, dai, io ne ho qualcuno più di te, io ne ho 44, dai, per cui già l'hai conosciuto anche tu, magari nella zona tua forse non arrivava. Mi ricordo qualcosa, però non ho una, diciamo così, una giusta focalizzazione totalmente di quello che mi sento. Probabilmente, Gianni, no, forse sì, roba che magari Haiti poteva essere un altro canale, non è detto che qui funzionava con il canale B, io mi ricordo così, adesso non vorrei sbagliare, non vorrei dire una fesseria, ma mi ricordo, forse Emanuele se lo ricorda, Emanuele ci sei ancora? Emanuele esci fuori, tanto già lo so che sia all'ascolto. Vabbè, no, cioè, comunque mi ricordo che era canale B, perlomeno qui a Sassari o robe, poi nei paesi non lo so. Canale B? Se ricordo bene, sì, adesso non vorrei dire una fesseria, ma io mi ricordo che Teo Equitivo Sardegna funzionava sul canale B, adesso ripeto, non ne sono sicuro, però così ho la mente un pochino su quel canale lì, io mi ricordo che era su quel canale, adesso non vorrei dire una fesseria comunque. Non dirla, intanto era una trasmissione sassarese e dunque non arrivava oltre il campanile, mi spiego? Comunque il canale era B, un'antenna che sembrava un aeroplano. E io cosa ho detto? Io ho detto canale B, allora adesso mi ricordavo bene, pensa, ti ho chiamato avvocato perché non l'hai scattato, quando ti chiamo io devo scattare sulla sedia, capito? Ma io sì. Perché mi stavo scaldando alla stufa, capito hai? Il canale D è Bade Urbana, dunque non può essere il canale B, D. F è a Monteoro, quella era una stazione privata, ed era il canale B, grande, quanto non era il plano l'antenna. E io cosa ho detto? Io ho detto canale B, com'è bravo? Io lo stavo dicendo, lo stava chiedendo, non è che lo stava dicendo, lo stava chiedendo Gianni. No Gianni, B, come bravo? Perché B è Bade Urbana appunto, entrava anche in H qua e comunque Bade Urbana. L'H è sempre sono ripetitori di Monteoro, della F andava in H per cosa, come si chiama, per Castelsardo, poi in H per Alghero e altri posti così di piccolo calibro, e quell'antenna andava in verticale. Sì, perché, ma Bade Urbana, poi spiegamelo io perché sei più anziana, ha ricevuto, ha mandato portante anche in H in queste zone? No, da Bade Urbana no, Monteoro l'ha mandata. La mandava a Porto Torres, a Capesardo e ad Alghero la mandato. Perché io ho un amico che ormai va bene, non fa più lavori. Lui aveva comprato appunto le antenne CGH perché questo Bade Urbana entrava in Dima, ma mi scusi, non ho capito questa cosa. Non so, io so che avevano fatto dei ripetitori. Perché le antenne messe ad Alghero, per esempio, se erano dirette verso Monteoro, ricevevano male. E allora avevano fatto un questo in un altro canale, cioè il canale 5, verticale, per non interferirsi tra di loro. Ma poi stanno chiamando Claudio, avanti. Claudio, mi ascolti? E non risponde. Già, guarda com'è meglio così, guarda questo passaggio. Claudio, a me che ti chiamano? Dimmi. Non c'è ON, l'apparecchio dell'equalizzatore, c'è HPF, poi c'è BOT, e poi c'è LPF, e poi OFF. Mettilo nel primo. LPF? Sì. Guarda un po' come va adesso, 1, 2, 3. effetti non c'è collo. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questi sono i baci, metti il terzo. Allora, questo è HPF, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lascialo qua per la M, comincio io. Aspetta, lo tolgo. Ok, così va bene il microfono. Non è grande, perfetto. Ok. Questi sono gli altri, poi c'hai i medi e poi c'hai i bassi. Mentre io ho un'unità unica, che è on, off e poi c'ha praticamente microfono automatico. Vabbè, ma questo è più grosso, quindi è così. Vabbè, lascialo così comunque, dai. Vi ascolto che sono al computer. Ciao a tutti. Ciao. Ok, un attimo. Tienilo un palmo dalla bocca, Natalino. E se c'è il palmografe, come fa? E va bene lo stesso. Appena hai la possibilità, prenditi un MD-100 come questo. Il miglior microfono in assoluto che ha fatto la IAS. Comunque, buonasera Claudio, come stiamo? Bene? È da molto che non ti ascoltiamo. Meglio così. Grazie, vuol dire che stiamo meglio. Avanti, chi c'era? Ah, Antonio? Non meglio va così il microfono? Sì, va bene, però mi è sembrato, quando hai fatto il secondo passaggio, cioè che hai messo sul secondo, la voce è più precisa quella tua reale, capito? In presenza persona, capito? Mi era sembrato quello, adesso io non vorrei contraddire nessuno, ma però il secondo scatto che hai fatto mi è sembrata la modulazione più precisa quella che in realtà hai tu di persona. Aspetta, Allora, questo è il terzo scatto, guarda, 1, 2, 3. Memorizzati questo. No, metti sul secondo, Guarda, questo qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ecco, io trovo la modulazione più giusta, più precisa a quella che tu hai realmente di persona, capito? Poi non lo so, adesso non so se dipende dal mio apparecchio, che ne so, boh. Beh, a te come ti sembra? Mi sono allontanato un attimino rispetto al discorso. Certo, Natali, cosa mi sembra, che cosa? La modulazione? Emilia, guarda questa, la modulazione. Fammi tre passaggi. Allora, questo è uno. Questo c'ha più basso. Questo è l'altro. Questo c'ha più tonalità medie. Aspetta, Vittorio, mamma mia, già. E questo è un altro passaggio, guarda, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, guarda un po'. Aspetta, Natalia, ti hanno parlato sopra quando ti sei messo, ripeti tutto da capo, un attimino Vito, scusa. Questo è un passaggio, guarda un po', questo è l'altro passaggio, 1, 2, 3, 4, e questo è l'altro ancora, 1, 2, 3, 4. Allora, Natali, purtroppo sei molto lontano probabilmente dal microfono e non si può valutare bene, perché dovresti avvicinarti un pochettino. Lascia le tonalità alte, io ti sto ascoltando con i filtri a 1008, lascia le tonalità alte. A tutti i bini dei baracchini, lascia le tonalità alte, fai come ti dico io. Ecco, questa è la più alta di tutte, con tre posizioni. Questa per la M è la migliore. Se tu ti guardi il manuale, ci sono le tonalità, le posizioni del MIC 11 del microprocessore e ti indica questa tonalità. Lascia la tonalità alta per la M, la stringi in FM e la allarghi, metti la media in banda laterale. Queste sono le tonalità che uso io dello IAESU ST950, quello che sto usando adesso. Ok? Non riprendo più, vi ascolto. Ciao a tutti. Ciao, ciao. No, vabbè, basta spegnerlo, sia NFM che in banda laterale, perché va benissimo, grazie. Vabbè, ma se sei, per dire, in contest, se sei in propagazione, metti la tonalità alta e tu non sbagli, perché in banda laterale, come con l'equatore inserito, con la radio, è una bomba. Perché sono le ultime uscite, sono di ultima generazione, non ce n'è per nessuno. Io ho notato le grossissime differenze dall'Icom all'IAS, soprattutto con questa, con l'FT950. Non mi serve per la M, sto usando il dipolo, ti ho solo risposto per darti una diciamo una referenza, però tienilo come ce l'hai che va benissimo. Ciao a tutti, buon divertimento. Ciao, ciao, te la grazie. Ok, ciao qua. Sì, in effetti i controlli sono senz'altro migliori quelli presi da un apparecchio professionale. Anche Emanuele lo sta confermando che quella migliore è evidentemente, perché magari anche lui sta ascoltando col professionale. Confermi Emanuele? No, no, io stavo sempre col Galaxy. Col Galaxy. Vabbè, adesso devo uscire da Rodeo, che la ragazzina deve andare a scambiare una scheda del telefono che ce l'hanno data sbagliata e devo accompagnarla. Saluto a tutti, buona serata, eventualmente più tardi, tra un'oretta, se rientro e ne ho ancora voglia. Saluti a tutti, buona serata. Ciao, ciao. Ciao Vittorio, come va? Tu sei tutto rauco oggi. Cos'è, non ti hai lavato la ventiera? No, no, è che sono le tue influenze. Ah, ecco, il tono influente. Allora lascialo, mettilo da parte. Se oggi è sabato, mettiti a cuccia una bella coperta elettrica e sulla volta però. Tappa consiglio anche tanto. Da solo. No, allora. Questa abitudine non gli piace la modulazione, scommetto. No, ti sentivo con un blu, sembra c'è il piccione, tombando. Comunque non sarebbe male, ma c'era una specie di rientro nella frequenza. Perché ci vuole buttare l'antenna, che sono senza massa, nell'antenna a marcella. Ci vuole buttata, il ritorno ce l'ho per quello. Infatti sono un accordatore, non si sa mai. Ecco, adesso ci siamo. Adesso ti ho capito. E mi devo mettere l'antenna nuova, questa ormai l'ho buttata via. Ma io la prossima volta me ne porta. Tu ho accordato in fila, ho messo per abbassare le 1.5. C'era un corto. Ho preparato, ho tirato fuori il pistone, la palmi, a vedere se erano vive le valvole, se no lì sì. Stavo provando già un giaguaro. Come mi ha matto, vanno vedete, ho visto Santiago 5, è fottito. Io stazionario non ne ho, io ce l'ho messo l'accordatore ma non ne ho stazionario, è proprio, è come che sto uscendo un quarto d'onda praticamente, si è staccata la bobina del cortocircuito dell'antenna da me. Ma perché se riesco a accordare un altro po', a passare un altro pochino? Ecco. Così mi ha tolto del tutto. Guarda, guarda, capito. Sta andando come un'antenna normale praticamente. Solo che mi fa rientro perché si è staccato quella affare lì. Adesso non te lo sto facendo, poco fa sia. Adesso ce l'ha. E perché ho accordato anche questo? Che è arrivato su 10? No, non me l'ho detto a nessuno. Sono entrato senza salutare, proprio. Poi tra un buongiorno e buonasera. Stavo ascoltando anch'io. Stavo ascoltando i controlli di qualità in radio, ma sentivo questo orgoglio della modulazione la modulazione di Trattolino, quindi sono intervenuto. Sì, tu. Sì, tanto altro non sono già pagato tu. Mi facciava l'altro. Pinnaccio. Già avuto situazioni di emergenza, e non mi ha buccato mi sono questa cuffia, ma... Pinnaccio. Ecco, me lo butti il capesso allora? Ah, sei in laboratorio, te lo scopri. Ehi, è bene, non vengo a rubarlo, no? Non so dove sono, insomma. Sì, certo, A retromarcia, parcheggio. Ce ne hai molti, posso anche scendere, ecco. E la... 433, HD 433, ti è mai capitata? Non è un calore, perché ce ne sono... Non so come sia. Non posso andare istanti, non è che sono spinato, io ti ho spinato come posso andare. A saldare, Rorra. Io ci do un'occhiata. Sono vicino al laboratorio, dopo ci do un'occhiata, te la faccio sapere. Veglia, HD 433, fai la cortesia lì tu. HD 433. Così me lo prendo quando appena di tempo lo schiaccio, capite? Perché questo è, dov'è? Ho dovuto mettere gli attacchi in mezzo, ma è vicinito ormai, devo togliere lo spinotto originale quasi. E quel filo liscio, quello lì un po' semiliquido, diciamo, all'interno, colorato, rosso e blu, l'altro capo. Scusate, ma sono sempre HD 465, le mie sono. Oh, scusate un attimo. Vabbè, io vi devo salutare che sto uscendo. Saluto a Natalino, Gianni, Vittorio, Giulio e poi chi c'era, Claudio, se l'ascolto e tutti gli amici. Riceteci alle prossime. Buona giornata per chi deve uscire, buona giornata per domani. Ciao da parte mia a tutti. Ciao Robe. Ciao Rufi. Ciao Robe, ci sentiamo, ciao. Natalino. Appunto che hai deciso tuo padre Salvatore? Di chi Salvatore? Salvatore, lo riconosco? Non ho capito, No, non l'avevo saputo, come avrei potuto. È morto, mi stavo dicendo, ieri notte. No, avanti ieri notte, credo. Sì. Vabbè, a me mi hanno riferito ieri notte, comunque l'ho detto, lo sapevo già, ma li trovati ieri notte. Ci saranno funerali oggi allora? Penso di sì. Anzi, l'hanno già fatto, credo, Sì, in quel posto dove sei tu, no? Vicino all'altro nostro amico, ho capito. In quella chiesa lì. Non ho capito, io l'avrò già fatti, gatta. Perché io lo conoscevo quell'uomo e a me dispiace se l'avessi saputo sarei andato al funerale. Comunque, cose che succedono nella vita. La vita è tante volte crudele, anzi molto spesso. Avanti Vittorio, raccontaci dell'influenza. Non è la spirito. Tanto per cambiare, così, no? vabbè. Dottore, mi hai chiamato, sì, quanti giorni c'è altro? 2 giorni, 3 giorni? Ma posso lavorare che non c'è bisogno di fermarti. Ah, e allora la cosa va bene così. Sì, vabbè, io vabbè, una ventina di giorni fa, sono stato una settimana, infatti che stavo male, ma ho continuato a lavorare tranquillamente. Come è arrivata l'influenza, se n'è andata così, ma era una cosa molto leggera, speriamo che non ritorni più. Vai Gianni da Itteri. Sì. No, io mi ho buttato una fantina e mi sono fatto una settimana bianca. Ah, hai fatto bene. Tu sei stato più fortunato di me e di Vittorio magari. E tu cosa hai fatto, Natali? Sasha. Natasha. Aspetta che si fa il Pittricinate, no? Mentre? Se ne sono pittricinate. Vabbè, tanto ancora l'antenna non caviglia, come piovente. Ti assicura, no, la ricerca prima mi regalare il medico. Magari, anda bene, anda bene. Sì, dopo con un'influenza, un giovane come il Garcia. Sai, anche se ho 28 anni, non mi fa un baffo. No, io ho sbuttato gli assieme. Il tuo gusto, se torna fuori, oggi sul balcone, ti ha dimostrato lei di Campagna. Adesso con quale antenna stai uscendo, Bittu? Col bastone della scopa? No, con l'antenna non spiegavasi. Dillami, Bittu. Pigava. Andile, quando è capuzzo, una volta è capuzzo. Comunque, Natascia! Passate a 9.10, mi sei salito. Non ti chiedi chi viva, là. No, è nulla. Quindi a metà c'è un pelino. Un pelino. Se no, ti sono stato, pare, se ci mattoni di una giovana romana, altro che pelino. Senti, a 9.20 qua. Quindi è una cosa che tocca e non tocca. Vedo aver carbonizzato qualche pezzo di silicone, ha scintillato il filo e ovviamente che a momenti non tocca e togli il cordo. E infatti adesso ho annullato gli accordatori e stazionari non ce ne premi tanto, però un fondo scala mi sembrassero tutti di parecchi punti S. Ma non credo. La NATO fa tutto che si sta al centrale, Vittorio.